Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno in particolare alle ascoltatrici. Un saluto particolare vorrei darlo a quell'ascoltatrice che ha lasciato questo messaggio WhatsApp al nostro 349-238-6666. La ringrazio personalmente per questo affetto che ha voluto mostrarci. Stiamo tutti lavorando un po' in modo così arrangiato, inedito per così dire, ma nessuno si tira indietro. Deborah, ci sei? Eccomi, ci sono. Oh. Buongiorno, stiamo lavorando in modalità straordinaria, una situazione straordinaria, però a quanto pare, a proposito di buone abitudini che rimangono, come quelle che evidenziava l'ascoltatrice, ce n'è una che è quella dalla quale vogliamo partire questa mattina, perché dopo i serpenti corallo che si presentano a domicilio per fare dei tamponi, scopriamo che anche sul mercato continuano a rimanere i soliti, no? E ci sono, e come potevano mancare? Cioè, visto che siamo a casa, magari passiamo più tempo su internet. A proposito, potete seguire Radio 24 anche con delle app con la app di Radio 24 al vostro smartphone, o seguirci su Facebook sulla nostra pagina. Ebbene, qualcuno pensa bene di abbindolarci con delle offerte, ovviamente, che ci invitano a versare denaro promettendo rendimenti mirabolanti. Ecco, e dopo una giornata dopo una giornata come quella di ieri, diventano dei messaggi particolarmente accattivanti. Esatto, qua sarebbero in circolazione delle proposte commerciali da parte di broker ciprioti che sfruttano il coronavirus per invitare a versare ulteriore denaro. Per cui se vi arrivano delle proposte da questa DePao LTD, che gestisce i marchi FXGM e GTCM, io li pronuncio così sillabando lettera per lettera, sono però molto attivi a quanto pare purtroppo in Italia, e se vi arrivano delle offerte commerciali con proposte di rendimenti mirabolanti, ecco, rinviateli al mittente, anzi fate così, magari minacciateli con il fatto di essere anche dei contagiati, così magari rimarranno un po' lontani. Adesso do magari dei suggerimenti non tanto divertenti, che sembrano anche un po' macabri, però veramente la madre dei furbi è sempre incinta, e soprattutto è particolarmente incinta in queste fasi in cui siamo tutti particolarmente sensibili a tutto. Caro Mauro, beh, d'altronde, appunto, come dicevi tu, con le borse di questi giorni, oggi vorrei subito dire che si stanno riprendendo tutti gli indici. E ne quindi parleremo, almeno questa buona, no? Notizia segnaliamola. Sì, Milano fa più 7%. Va bene, meno male, dai. Io volevo dire, quando, se vi capita che vi promettano dei rendimenti, adesso questi di DePao promettono bonus fino al 150%, allora, a parte che è impossibile, nessuno può fare questo, a meno che non vi voglia fare un regalo, ma allora forse è un parente, non lo so. Ecco, controllate sempre anche sul sito della Consob, perché Consob non ha smesso di monitorare questo tipo di truffe, questo tipo di inviti truffaldini, quindi continua a bloccare siti non dei malintenzionati, dei serpenti corallo, come li chiamiamo noi qui a Radio 24. Quindi andate, visto che appunto siamo spesso su internet, siamo spesso in rete, facciamo anche questo tipo di controllo. Di che parliamo di bello oggi, Deborah? Guarda, adesso noi dobbiamo intraprendere questo cammino veramente di totale servizio per i nostri ascoltatori, per cui in attesa che venga varato l'ulteriore provvedimento del weekend che dia lo stop ai versamenti di tasse, di contributi, e so che è un tema che ti è molto caro, Mauro, e noi lunedì spiegheremo tutto quello che succede, tutte le sospensioni dei adempimenti appunto fiscali per tutti quanti, perché sarà un provvedimento che riguarderà le imprese, riguarderà ogni singolo contribuente, soprattutto le partite IVA, che ovviamente soffrono in maniera particolare questa situazione. Anche oggi facciamo una trasmissione di servizio, perché parleremo a Di bollette, l'ARERA ieri sera ha comunicato che sarà più tollerante per tutte le persone morose a cui erano state staccate le utenze, quindi le utenze verranno riattaccate e quindi questo alleggerimento per le morosità ci pare particolarmente importante da segnalare, e sarà con noi il presidente di ARERA che si è reso immediatamente disponibile per raccontarci di questa misura varata ieri sera. Parleremo delle emergenze di condominio, perché Mauro va pulito anche in questi giorni, soprattutto in questi giorni, e se abbiamo appaltato il servizio ad un'impresa esterna, che si fa? Come si gestisce? Ci mettiamo tutti a pulire, come dire, l'area di nostra competenza, la scala di nostra competenza? È un problema che affronteremo, guarda, direttamente con il presidente Anaci, che abbiamo richiamato qui a Due di Denari. Però esatto. Io poi so poi che vuoi affrontare tema, sì. Un tema che ti è caro, perché tu spesso te ne occupi anche dal punto di vista degli effetti economici che possono generarsi in caso di separazioni e divorzi. E quindi di che parliamo? E quindi il punto è che nella terza parte i nostri amici avvocati matrimonialisti ci hanno segnalato che in questo periodo i loro telefoni sono particolarmente caldi, perché molte famiglie di già separati chiedono come dobbiamo comportarci per gli spostamenti dei figli, se una settimana deve il figlio separati essere gestito dalla mamma e nel weekend era programmato che si spostasse dal papà, con questa interruzione di trasferimenti e trasporti che è stata appunto suggerita dagli ultimi provvedimenti del governo, come si fa? Scattano le liti, e qua non ci si mette d'accordo neanche in questo momento, per non parlare poi del fatto che sono sospese tutte le udienze in tutti i tribunali. In realtà, per quello che riguarda il diritto di famiglia, da quello che ho capito non è sospeso niente, per cui i procedimenti urgenti su adozioni, alimenti, visite ai figli stanno andando avanti, e ci spiegherà tutto quanto l'avvocato Giorgio Vaccaro, che è un grande amico di Due di Denari, e quindi cercheremo di dare un supporto alle famiglie che sono alle prese anche con queste problematiche che non si sono fermate purtroppo nonostante il coronavirus. Abbiamo detto tutto? Sì, trittico di ospiti, devo solo ricordare 800 24 00 24 per intervenire in diretta con il nostro numero verde, o 349 238 6666 per inviare SMS e WhatsApp. Ci chiede un ascoltatore proprio via WhatsApp: devo andare a fare un colloquio in un altro comune per un colloquio di lavoro per un'eventuale assunzione. Allora, abbiamo chiarito in alcune puntate precedenti con altri esperti, nella fattispecie era Enzo De Fusco, che la motivazione del colloquio per assunzione può essere una causa di necessità che consente di viaggiare. Raccomandava però De Fusco, e quindi io mi faccio latore nuovamente del suo messaggio: compilate bene l'autodichiarazione, portate tutte le possibili stampate, email, quello che volete, che vadano a testimoniare che voi vi state recando per un colloquio di lavoro. E naturalmente, ma sembra ovvio dirlo, ma ripetiamolo lo stesso, sempre il tutto a distanza di sicurezza, almeno un metro. Stiamo facendo così anche qui in radio, stiamo tutti obbligandoci a questa disciplina di stare distanti gli uni dagli altri. Ci costa, ma bisogna farlo. Cara Deborah, andiamo. Allora, abbiamo in collegamento, grazie per la disponibilità, il presidente ARERA, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, Stefano Besseghini. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno, buon risentiti, e buongiorno anche agli ascoltatori, naturalmente. Allora, ci riassume cosa ha deciso ARERA per venire incontro alle esigenze degli italiani e delle fasce anche più deboli, quindi più deboli economicamente. Blocco dei distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua è il titolo, ma immagino che poi ci siano una serie di interventi da declinare. Vuole farlo lei, Besseghini? Volentieri, ma in realtà, come potete ben immaginare, la situazione è costantemente in divenire, quindi questi proprio possiamo considerarli dei primi prese di contatto col problema, dei primi interventi per cercare almeno di garantire quello che forse è l'aspetto più rilevante in questo momento, e cioè che le persone costrette a casa da evidentemente cause di forza maggiore possano non dover andare incontro a difficoltà almeno sul lato dei servizi, quindi che la parte legata ai distacchi, legata agli adempimenti che solitamente vengono correttamente messi in campo per i problemi di morosità, non sia fonte di ulteriori difficoltà su servizi che evidentemente sono fondamentali: l'elettricità, l'idrico, i rifiuti e quant'altro. Quindi quello che Ieri intanto abbiamo cominciato con il deliberare una sospensione dal 10 di marzo, quindi leggermente retroattiva, fino al 3 di aprile del 2020, di questi tipi di interventi. Quindi anche chi ha subito in questi due giorni precedenti delle disalimentazioni, le società sono già state allertate per procedere alla riattivazione delle forniture. Torneranno alla fornitura normale, questo mi sembra importante precisarlo, no? Perché a volte ci fanno anche forniture ridotte nel caso di morosità prolungate, mi pare. Esatto, e questi interventi valgono sostanzialmente per tutti i clienti, appunto, di bassa tensione, per il gas fino a 200.000 m3 anno, e poi per il settore idrico invece per tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Questo è forse il primo intervento più immediato. Abbiamo anche però cominciato anche, come si dice, a creare un momento di sicurezza. Abbiamo costituito un fondo ad hoc presso la Cassa per i servizi energetici ambientali, che è sostanzialmente la struttura che si occupa di svolgere poi i pagamenti per tutti gli adempimenti legati alle difficoltà che i sistemi energetici o idrici possono incontrare. Abbiamo cominciato a costituire un fondo di 1 miliardo di euro per riuscire proprio ad avere un polmone sostanzialmente che permetta di gestire questa fase in cui inevitabilmente ci saranno delle tensioni anche per gli operatori sul sistema, e quindi poi andremo a identificare con più dettaglio i vari tipi di intervento, ma intanto abbiamo cominciato a creare questa disponibilità di riserve, che è un elemento ulteriormente importante, perché viene fatto sostanzialmente con quanto la Cassa ha già di disponibile e di in qualche maniera utilizzabile. Naturalmente è il meccanismo dei prestiti, poi questi fondi all'interno andranno riassegnati ai fondi di destinazione originali, ma questa è poi una tecnicalità che riguarda più noi che non i consumatori. E poi c'è anche un altro aspetto, credo, importante, perché abbiamo preso tutta una serie di termini di adempimenti regolatori. Questi sono cose magari più tecniche, lo capisco, nel senso non così di immediato interesse per l'utente finale, ma hanno un'importante funzione, perché avendo in questo momento tutti gli operatori giustamente prioritariamente impegnati a gestire l'emergenza, a fare in modo appunto che i servizi ci siano, perché purtroppo, come potete ben immaginare, i guasti avvengono comunque, le difficoltà sulle reti ci possono essere, quindi c'è tutta una gestione comunque ordinaria che nell'emergenza però soffre di evidenti problemi, perché anche chi opera all'interno di queste aziende può andare incontro a necessità di quarantena o limitazione di spostamenti e quant'altro. Abbiamo preso tutta una serie di termini di adempimenti regolatori non urgenti e li abbiamo spostati là nel tempo. Adesso sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio di tutti i vari casi, ma insomma questo è fatto sostanzialmente per scavare un pochino il sistema delle aziende, renderlo libero di operare a supporto della... Certo. L'importante era far capire alle famiglie, appunto, che sono in difficoltà perché si sono viste sospese la fornitura di energia elettrica, gas e acqua per morosità, che in questo momento questa condizione è sospesa. Lo ricordiamo, fino al 3 aprile, giusto Presidente? Esatto, per fino il momento. Al 3 aprile. Poi naturalmente questo lo potete bene, lo possiamo ben immaginare, la situazione è decisamente mutevole. Noi tutti auspichiamo e speriamo che l'evoluzione sia la più rapida e la più positiva possibile, ma poi saremo un po' alla finestra a vedere che cosa succede e decideremo di conseguenza. Mi pare peraltro che anche in questo caso abbiamo cercato di intervenire molto rapidamente con quello che si poteva fare, e la stessa cosa lo faremo nell'evolvere della situazione. Presidente, le faccio una domanda molto difficile, ma le chiedo una risposta brevissima. Ci scrivono diversi ascoltatori, ad esempio partite IVA, lavoratori autonomi, ovviamente non stanno lavorando in questo periodo, stanno lavorando pochissimo, dicono: ma se io non ce la faccio a pagare la bolletta questo mese, che mi succede? Beh, il tema è quello che dal punto di vista della morosità in questo momento non c'è diciamo così una sanzione, non c'è un distacco, non c'è l'evoluzione, i meccanismi consueti che derivano dal mancato pagamento. Adesso sapete benissimo che non è una bolletta di mancato pagamento che fa scattare chissà quale conseguenza, è un processo in evoluzione, con solleciti, con varie fasi, insomma, prima di arrivare al distacco. Quindi questo è un intervento fatto soprattutto per evitare di gestire, cioè di ritrovarsi nella fase ultima del distacco che vada in esecuzione proprio in questa fase così critica. Tutte le altre situazioni abbiamo gradi diversi con cui gestirle, gli stessi operatori, ci sono diversi operatori del settore elettrico ad esempio che in questo momento hanno mandato indicazioni alla clientela di una particolare tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento, la possibilità di creare questo fa parte ovviamente delle facoltà che ogni operatore ha nel gestire la propria relazione con i clienti. Quindi diciamo che io credo che sia in questo momento una grande consapevolezza complessiva di tutto il sistema che il momento è un momento di difficoltà oggettiva e quindi ci sia la volontà di minare il più possibile il campo appunto da questo tipo di difficoltà. Grazie al presidente Stefano Besseghini e noi, grazie, cara Deborah. Grazie a voi e complimenti per il lavoro che fate. Grazie, complimenti a voi. Noi andiamo subito al volo all'altro argomento. Do subito la parola a Francesco Burrelli, è il presidente ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, prima cosa, il sito www.anaci.it, ci sono delle news sull'emergenza coronavirus. Ovviamente la vita di condominio è tanta e tale che dovremmo parlare per una giornata intera per esaminare tutti gli aspetti. Ma io con il fatto che stiamo tutti a casa in questo periodo sicuramente si moltiplicherà la spazzatura, perché ovviamente siamo un po' tutti blindati, quindi cambiano le abitudini, siamo meno fuori di casa, non perché siamo più sporchi del solito, solo perché siamo più presenti del solito nelle nostre case, soprattutto perché proprio in questo periodo è particolarmente importante disinfettare, sanificare, rendere gli ambienti in cui viviamo particolarmente puliti, per cui è un'emergenza nell'emergenza, per cui bisogna capire effettivamente anche questa disposizione che la ANACI ha diffuso agli amministratori associati, appunto queste disposizioni che cosa indicano, no? Mauro, che ne dici? Lo facciamo esattamente raccontare. Ci spiega, presidente Burrelli, voi avete detto se avete il portierato e il portiere risiede lì, vabbè, allora sta nella sua abitazione e lavora in sede, ma quelli che invece vengono da fuori, beh, continuano a lavorare, naturalmente con tutte le precauzioni che abbiamo tutti quanti, il metro di distanza e le forniture di guanti, mascherine, eccetera, quello che tutti i datori di lavoro devono mettere a disposizione. Allora, grazie della opportunità ulteriore su quello che stiamo mandando e continuiamo a mandare, ma dobbiamo fare una premessa generale. Nel DPCM che il Presidente del Consiglio ha diramato, purtroppo ancora una volta si sono dimenticati la parola condominio e purtroppo la parola assemblee, perché poi diventerà importantissimo. 40 milioni di italiani circa vivono in condominio e non si è detto una parola. Noi a Conte però gliel'abbiamo ricordato dicendo molto probabilmente in assembramenti e in eventi, molto probabilmente ci sta anche la parola assemblee, quindi ci sta anche la parola di convocare le assemblee per richiedere non solo denari ma anche per approvare i consuntivi. Fatta questa premessa, che questo è un problema di, diciamo, dettaglio poi oggettivo per tutti gli amministratori d'Italia, perché considerate che ci sono 1.200.000 condomini dispersi in tutte le province d'Italia dove noi siamo presenti, quindi qualche problemino da questo lato c'è. Veniamo però alle caratteristiche, che sono poi caratteristiche non tutte, diciamo, cadute perché c'è il coronavirus. Ricordiamoci che c'è un decreto 81/2008 che è un decreto del testo sulla sicurezza che dice già buona parte di tutti i provvedimenti che bisogna fare sia quando siamo datori di lavoro sia quando non lo siamo datori di lavoro, ma si lavora sempre in un luogo di lavoro. Quindi adesso ci sono una serie di preoccupazioni, quindi quegli studi professionali che ha messo nell'ultimo DM avrebbe dovuto specificare che gli amministratori di condominio sono persone che fanno un servizio quasi pubblico, direi addirittura pubblico. Pensate se tutti gli amministratori chiudessero, se ne andassero a casa, mettessero le braccia in conserva, cosa succederebbe? Tutti i prefetti precetterebbero gli amministratori. Non è così, perché viva Dio, noi siamo abbastanza consapevoli e quasi tutti noi stiamo lavorando chiusi. Quali sono le cose importanti che bisogna dire senza a, diciamo, allarmare, ma soprattutto senza angosciare le persone. Anch'io ho paura, io ho due figlie, siamo con tre persone all'interno dell'ufficio che stiamo cercando di lavorare e di rispondere a tutte le emergenze, ma abbiamo una paura intelligente, non l'angoscia. E quindi quali sono le regole? Le regole sono abbastanza semplici. Se siamo datori di lavoro, il datore di lavoro ha un documento, il documento di valutazione del rischio, che è firmato da quattro figure: dal datore di lavoro, dall'RSPP, quindi dal responsabile della sicurezza, della prevenzione e protezione, dal medico competente e dalla rappresentante dei lavoratori. Cosa deve fare il datore di lavoro? È chiaro che il datore di lavoro, questo è un rischio specifico, si aggiunge in più agli altri rischi che aveva già, quindi dispositivi di protezione individuale, i guanti, gli occhiali, le mascherine e tutto quello che c'è lo doveva già fare. Questo è un evento maggiore. Quante volte in più lo devo fare? Cosa devo fare dentro? È chiaro che se devo stare a distanza di un metro uno dall'altro, è chiaro che nell'ascensore invece di entrare in quattro entreremo in uno, quindi magari nell'ascensore metteremo, si avvisano tutti per evitare che ci sia la distanza interpersonale per due persone inferiore al metro, prendere l'ascensore uno per volta. Ma siccome questo virus si trasmette anche sulle superfici e soprattutto se sono bagnate, allora magari quando schiacciamo il pulsante dell'ascensore, magari se abbiamo i guanti tanto meglio, perché così magari non trasmettiamo questo virus e non ce lo portiamo in casa attraverso un'altra persona. Allora la domanda però resta: tutte le persone che passano su tutte le corse che facciamo, quindi milioni di corsi al giorno, ogni volta che prende l'ascensore uno dovremmo disinfettarlo, e quindi nasce non solo un problema, nasce un problemone, un problema grande. Quindi diciamo che non si farà tutti i giorni e non si farà tutte le volte che si prendono le persone, però dando delle precauzioni e non so, almeno un paio di volte alla settimana, due volte alla settimana, tre volte alla settimana, dove possiamo anche una volta al giorno disinfettarlo e fare un'igienizzazione a base di alcol o comunque a base di prodotti indicati, che sono già prodotti che dovremmo sapere, già delle schede tecniche già prodotti di quando noi siamo datori di lavoro, perché sono le schede già prodotte, quindi non c'è niente di nuovo se non quella di dire cosa bisogna dare come indicazioni. Quindi questo tipo di indicazioni, il mancorrente della scala, è chiaro che se io passo nel mancorrente e l'impresa di pulizia la faccio passare una volta in più, due volte in più con un prodotto igienizzante e gli faccio passare quello, diventa importantissimo. Diventa anche importantissimo dare delle indicazioni ai nostri operatori delle pulizie o meno. Intanto sarebbe già da dire quante maschere gli diamo o quanti guanti gli diamo, che sono introvabili, quindi dopo che le usiamo due o tre volte non ne abbiamo più per darglieli. Ma questo è un altro problema, questo è un problema di reperibilità, stiamo lavorando, certo, anche netto, no, no, ma infatti al netto dei problemi di approvvigionamento. Certo, però leggere una domanda di un ascoltatore: l'impresa di pulizia, adducendo motivi di tutela della salute del dipendente, può autosospendersi dal servizio per X settimane e non, ma non incorrendo nella inadempienza del contratto? È una questione molto delicata. Come la vede lei, allora, Borrelli? Io gli dico come la penso io, e poi i risvolti legali bisognerebbe vederli dal contratto e da tutto il resto. Certo. Non è che io, perché dico che devo tutelare la sanità o devo tutelare la sicurezza o la salute mia o degli altri, mi autosospendo. Lei pensi se tutte le imprese di pulizia e tutti quelli che stanno fuori, come diceva la collega, la dottoressa che ha parlato prima, dottoressa Luciana che parlava prima, adesso che siamo tutti a casa, lei pensi se non facciamo pulizia, se non approvvigiamo più l'acqua, che ce n'è di più, richiesta di luce di più, richiesta di banda telefonica più, richiesta di tutto, e non ci fosse un riferimento per una perdita dell'acqua, per il riscaldamento, per la pompa che non funziona, eccetera, e io mi autosospendo per sicurezza? Sicuramente in qualche provvedimento incorre, e sicuramente io, solo per consapevolezza e solo per responsabilità, per il momento dove tutti dobbiamo fare qualcosa per aiutare tutti, io non lo farei. E se fosse un mio dipendente o se fosse qualcuno che lavora nel mio entourage o vicino al mio entourage, sicuramente finito questo periodo sicuramente lo lascerei a casa, perché persone che non si rendono responsabili in questo momento, pensiamo a tutte le persone, agli infermieri che si sono infettati, ai dottori che si sono infettati aiutando e curando tutti gli altri, che si dovrebbero sospendere, fare gas. È un'irresponsabilità, certo, che le persone che non devono possono fare, assolutamente. Grazie Presidente Burrelli, grazie della sua disponibilità. Io ricordo ancora il vostro sito www.anaci.it e naturalmente, come diciamo spesso agli esperti che sentiamo in questi giorni, restate a disposizione, avremo continuamente bisogno di voi. Cara Debora, adesso invece abbiamo bisogno di te e dei tuoi aggiornamenti. Sono pronta. La borsa. Due di denari, una cosa seria, per i vostri soldi, non i nostri. Due di denari. Ti chiedo scusa, ma una domanda. Se io devo andare a buttare la spazzatura, devo portare questo foglio con l'autocertificazione? Grazie. Cara Debora, cari ascoltatori, i dubbi sono su qualsiasi cosa. Allora, io per carità, sia una provocazione quella dell'ascoltatrice. Sì, non sono un giurista, ma mi sento di dire che, visto che ieri hanno poi precisato, come peraltro era stato detto anche dagli esperti sentiti da Nicoletta Carbone ogni giorno dalle 10.30 alle 11, gli esperti della sanità, i medici in contatto con Nicoletta Carbone avevano detto: vabbè, ma la passeggiata all'aperto si può fare consentita. Io credo che la sostanza del decreto, Debora, sia poi soltanto una: evitate i contagi, evitate gli spostamenti inutili, e dove inutili vuol dire quelli che proprio non sono essenziali per vivere. Se mi manca il pane e mi manca il latte, va bene, posso uscire, buttare la spazzatura dovrò pur farlo perché non posso certo trasformare la casa in una discarica, però andare a passeggiare così a capocchia magari no. Questa è la mia interpretazione, la mia personale circolare. Tu a volte fai gli editoriali, io ho fatto una circolare. Ne faccio un'altra, hai fatto benissimo. No, tra l'altro, questa è l'ultima postilla rispetto all'argomento che abbiamo affrontato in precedenza. Molti ascoltatori naturalmente ci hanno anche chiesto per le spese straordinarie, scade la rata del condominio tra oggi, domani, lunedì e martedì, che cosa si fa? Non posso andare in banca, è meglio non andare in banca a pagare il MAV, che generalmente è il bollettino che viene utilizzato. Io credo che se ritardiamo di 3 giorni il pagamento della rata condominiale, nessuno ci viene a bussare alla porta per accusarci di essere stati inadempienti. Quindi credo che anche da questo punto di vista, in questa fase, ci sia la massima elasticità su tutto. Se poi siamo inadempienti da 2 anni rispetto alle rate del condominio, magari più avanti l'amministratore prenderà altri provvedimenti, ma non è questa la fase per essere così puntigliosi sulle scadenze, soprattutto sulla rata del condominio, visto che addirittura ARERA ha detto che riallaccia le utenze per le persone che erano morose. Andiamo all'altro tema che avevamo promesso oggi, Mauro, giusto? Volentieri, vai allora, pure. Allora, salutiamo intanto l'avvocato Giorgio Vaccaro, scrive per il Sole 24 Ore, un grande amico di Due di Denari, cassazionista, docente sui temi della psicologia del diritto di famiglia, che ci ha segnalato altre cose interessanti che stanno purtroppo succedendo in questa fase di emergenza. Intanto lo salutiamo, avvocato Vaccaro, ben trovato a Due di Denari, buongiorno. Ben trovati, buongiorno e buon lavoro. Allora, i telefoni degli avvocati matrimonialisti, di tutti quegli avvocati che si occupano di diritto di famiglia, sono stati letteralmente in questo momento presi d'assalto, perché si stanno consumando anche delle emergenze familiari. Peraltro ne ha parlato prima anche Nicoletta Carbone con il professor Raffaele Morelli, e si scherzava molto sulla vita di famiglia che in questa fase è messa a dura prova. Le convivenze sono difficili, soprattutto se eravamo totalmente disabituati, perché spesso ci si saluta il mattino e poi ci si rivede la sera, i ragazzi stanno a scuola, adesso c'è invece l'affollamento anche familiare e c'è una tenuta messa molto in difficoltà. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Sappiamo che i decreti legge, il 9 del 2020 naturalmente, in vigore dal 2 marzo, e l'11, operativo dall'8 marzo, hanno disposto la sospensione delle udienze dei processi civili e penali in corso presso tutti gli uffici giudiziari. Ma ci sono delle eccezioni, avvocato Vaccaro, intanto perché i procedimenti che riguardano proprio l'ambito del diritto di famiglia non sono stati invece sospesi. Quindi intanto chiariamo questo aspetto, che è molto importante. Poi andremo a cercare di capire come disporre la vita dei figli, se si tratta di figli che devono essere gestiti da coppie separate. Avvocato Vaccaro. Allora, nella realtà è successo esattamente questo, che le problematiche relative alle crisi di famiglia rientrano tra le situazioni che possono generare dei problemi gravi, quindi di sicurezza, quindi di violenza, quindi di tutela delle parti deboli di questo rapporto familiare. Quindi I presidenti dei tribunali, io ho fatto un punto di riferimento, ho fatto un approfondimento sui provvedimenti del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, e visto proprio la struttura del decreto, hanno indicato una serie di categorie di problematiche, una serie di cause che, rivestendo carattere di necessità, potevano essere tenute. L'incremento della zona rossa e quindi questa situazione di maggior allarme e di maggiore importanza della distanza delle persone ha portato alla specifica finale col provvedimento attualmente in vigore, per il quale per trattare delle questioni di emergenza in ambito familiare si deve fare una specifica istanza al tribunale, e l'istanza viene rimessa al giudice che decide se trattare questa situazione, visto l'emergenza che viene rappresentata dai legali. Per il resto, tutti i procedimenti che sono compresi nella forbice di sospensione delle udienze, che ricordo è fino al 22 marzo, e che vengono rinviati a data successiva al 31 maggio, vengono coperti da questa coperta di sospensione. Quindi si trattano solo le questioni estremamente urgenti che devono essere sollecitate dagli avvocati di una delle parti al giudice della questione. Quindi l'emergenza per il Tribunale ha portato a ridurre l'attività del Tribunale solo alle situazioni dove ci sono le situazioni di violenza, dove dei bambini possono avere delle situazioni di pericolo, e in quel senso la coperta della giurisdizione rimane attiva. Mm-hmm. Sono state invece sospese tutte le udienze di separazione, di divorzio e relative anche alle coppie di fatto. Ecco, esatto. La prima discussione era teniamo le presidenziali o non teniamo le presidenziali, quindi diciamo le udienze fissate in quest'arco dove si devono emettere i provvedimenti provvisori urgenti, per queste particolari categorie, cioè le udienze presidenziali che emettono i provvedimenti provvisori urgenti sia per la separazione che per il divorzio, l'istanza dell'avvocato può provocare la tenuta di questo procedimento, altrimenti si può vedere davanti ai tribunali, si può vedere di rinviarli a data successiva al 22 marzo. Ci sono dei termini generalmente che devono essere rispettati per i rinvii di cause come queste, avvocato? Guardi, oppure, buon data senso, la straordinarità tutti della rinviati, situazione? Ecco. Tutti i processi normali sono rinviati, sono sospesi fino al 22 marzo e sono stati rinviati a data successiva al 31 maggio. È evidente che il 22 marzo ritengo che sarà integrato qualche cosa, perché da qui al 22 marzo non dovrebbe cambiare questa situazione. Certo. E sono ovviamente provvedimenti straordinari, cioè noi in 30 anni di professione non abbiamo mai visto una situazione del genere, quindi è evidente che l'attenzione da parte di chi deve gestire la giurisdizione è un'attenzione di emergenziale anche questa. Si cerca di fare il minor danno possibile mantenendo la copertura della giurisdizione sulle situazioni più delicate, confrontandosi con un'emergenza sanitaria. Allora, è una cosa estremamente delicata, estremamente nuova, estremamente da prima linea, insomma, piano piano si va avanti, certo. Così. È fondamentale che passi il messaggio: se c'è qualche cosa in famiglia che non funziona, il tribunale è aperto e gli avvocati sono in grado di poterlo rappresentare. Allora fermo entrambi, l'avvocato Vaccaro e la collega Debora, che è collegata appunto da remoto, perché adesso è il 45esimo. E noi, anche se ovviamente non c'è molto da comunicare perché forzatamente siamo tutti a casa, però qualcosa c'è da dire, e allora sentiamo cosa ci dice il traffico. Due di denari. Un signore ha preso una multa perché è andato a comprare il pane nel paese a fianco perché dice che è più buono. Ma sinceramente, se uno sale in macchina, sta sulla sua macchina, non ha contatti con nessuno, che vada in panetteria al paese suo o il paese a fianco, ma che problema è? Allora, che problema è? Secondo me, ma visto che abbiamo un avvocato, forse possiamo chiederlo a lui. Ecco, secondo me è un problema di capire il senso dei vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei decreti legge. Infatti. Dobbiamo limitare gli spostamenti. Quindi limitare gli spostamenti vuol dire limitare gli spostamenti alle cose assolutamente essenziali. Potresti essere più chiaro, Mauro? Non ho capito bene, sì, l'interpretazione del concetto. Ci hanno chiesto di limitare gli spostamenti, potendo di stare a casa, di lavorare in smart working e di stare anche a distanza quando ci vediamo a un metro l'uno dall'altro. Non so quale parte di questo provvedimento non sia chiara, però l'avvocato Vaccaro, che appunto essendo avvocato è molto più titolato di me a parlare, può confutarmi su questa mia interpretazione. Non confuto l'informazione, dico solo una cosa, che come tutti i provvedimenti deve poi prevedere delle eccezioni, e su quelle eccezioni si apre la famosa battaglia che ha una sola regola, quella del buonsenso. E siccome avvocato, guardi, vado a valorizzare questa sua affermazione. Un'ascoltatrice ci scrive: mia madre abita sola in un comune a 5 chilometri da me, è anziana, posso uscire almeno a portargli la spesa? Questa è l'eccezione che autorizza agli spostamenti. Io spero che questa signora compri le cose necessarie alla mamma, si infili in macchina, gliele porti, stia con la mamma il tempo necessario per confortarla, nutrirla, e se ne ritorni a casa sua senza fermarsi durante i 5 chilometri a parlare con degli amici senza senso. Se posso dire una cosa, perché questo è molto importante, il vostro servizio è importante proprio perché si parla di situazioni pratiche. Se vado da mia mamma anziana, le porto la busta della spesa e parlo con la mia mamma, devo tenere la mascherina. Perché anche venendo da fuori io posso essere veicolo di infezione per mia mamma che è a casa. Le persone anziane, come sappiamo, hanno una situazione di estrema delicatezza rispetto a questo tipo di attacco virologico. Quindi tutto può essere fatto, ma il buon senso deve regolare queste emergenze, deve regolare le situazioni che creano una non stiamo a casa per un motivo specifico. Certo. Tra questi I figli, esatto. I figli separati. Esempio il genitore separato e, come dire, le alternanze nei figli. Adesso viene anche il fine settimana, quindi forse ci saranno anche delle urgenze di questo tipo. Che come bisogna fare? Allora, nella realtà la regola sempre quella del buon senso. Tra genitori io sono stato subissato di telefonate in questi giorni, di messaggi, di WhatsApp. E nella realtà devo dire che il 70% dei genitori ha tra loro, confrontandosi con me, trovato poi la quadra, cioè sono abbastanza grandi per capire il problema, non vedono il papà, non vedono la mamma, non succede niente, recupereremo successivamente. Quando invece si tratta di ragazzi, di bambini, di minori che hanno un'età un pochino più piccola, quindi è più difficile spiegarlo, che possono avere da non poter frequentare l'altro genitore un momento di abbandono, e quindi da evitare assolutamente in una situazione dove non vanno a scuola, non hanno il gruppo dei pari, non si confrontano con la loro normale socialità, e i punti di riferimento per bambini di una fascia di età evolutiva più piccola, diciamo dai 3, 4, 5, 7, 8 anni, è importante avere il conforto dell'altro genitore. Nell'ambito del genitore non è un'altra persona che può portare disagio, è proprio un punto di riferimento della personalità in crescita. Quindi per questi bambini la fase emergenziale, secondo me, esiste la necessità che l'altro genitore faccia di tutto per poterlo vedere. Chiaramente, se il bambino è reduce da un'influenza, da una terapia farmacologica, non deve uscire, alla febbre, è evidente che quel tipo di esigenza supera l'esigenza di non perdere il punto di riferimento costituito dalla frequenza con l'altro genitore. Stiamo dicendo l'ovvio, ma l'ovvio in una situazione di tensioni, di pressioni, e in una situazione dove evidentemente la normalità è un po' sospesa, l'ovvio diventa una regola molto importante da seguire. L'ovvio, sono perfettamente d'accordo, avvocato Vaccaro, bisogna anche farsi delle domande magari ovvie, ma cercare delle risposte altrettanto ovvie. Il caso della famosa autocertificazione, allora mettiamo che i genitori separati si siano messi d'accordo per la visita. Sì. L'autocertificazione quindi dovrà riportare, non so, anche qualche indicazione legale, separati da, divorziati da, eccetera. Come da provvedimento del giudice, perché vedete, le persone che ringraziamo e non smettiamo mai di ringraziare, che sono sulle nostre strade, sono polizia, carabinieri e gli uomini del pronto soccorso, hanno anche loro come arma quella del buon senso. Cioè una persona che dice: beh, per motivo sto andando a prendere i miei figli minori per passare con loro il weekend, se devono fare degli accertamenti li faranno sicuramente, per evitare che questa scusa diventi poi la scusa che permetta l'uscita di persone per altri motivi. Ma sicuramente il buon senso, una volta una giustificazione del padre che frequenta i figli, della madre che frequenta i figli, non diranno mai nulla, perché sono padri e madri anche loro e perché applicano regolarmente il buon senso. Ricordo a me stesso e ricordo a tutti i genitori che i figli vanno frequentati nell'ambito della cerchia della genitorialità. Quindi non si devono organizzare partite di calcetto con altri bambini. I bambini, quando li prendo, li tengo a casa mia, li tengo e faccio fare a loro i compiti. Cioè, devo, sostituendomi al genitore col quale normalmente abitano, ricostruire un habitat che sia domestico. Non li porto in giro perché non so come gestirli. Quindi è un'assunzione di responsabilità estremamente importante da parte di quel genitore che si trova a essere il genitore che frequenta i figli in un momento dove gli spazi sono quelli del domestici. Ecco. Non si portano i figli fuori perché sono fonte di ipotetiche acquisizioni del virus. Quindi di non contagio, certo. Esatto, di contagio, esatto. Mi sembra che questa parte sia chiara. Io introdurrei un altro tema che si lega un po' a quello che dicevamo anche in altre parti del programma, cioè difficoltà economiche in questo momento, specialmente piccole, piccolissime aziende, partite IVA, lavoratori autonomi, eccetera. Ma magari devo pagare, devo corrispondere degli alimenti. Gli alimenti. Che posso fare? È un motivo per cui posso dire non ce la posso, questo mese non ce la faccio, oppure no? È un motivo contabile, nel senso non ho potuto tenere aperto il mio bar, pensiamo a queste cose che sono le cose proprio drammaticamente quotidiane, non ho potuto tenere aperto il mio esercizio, non ho incassato. È una giustificazione sicuramente esistente, perché chi vive del lavoro di ogni giorno, non potendo incassare, non riesce a trovare. Nei confronti dei figli minori diventa un problema. E in quel senso la norma e la norma penale sta nel buon senso delle persone. Se io so che la persona, madre o padre, che mi deve dare i soldi, ha chiuso e tirato giù le saracinesche, e faccio una denuncia in questo momento, rispetto perfettamente i canoni della legge, non rispetto i canoni della famiglia, perché di fronte a una persona che ha tirato giù la saracinesca, fargli una denuncia, seppur perfettamente in punta di diritto, significa fare quello che a Roma si chiama carognata, perché i soldi noi sappiamo, insomma, che no. C'è un altro discorso, è evidente che in questo momento posso attingere al risparmio. Se c'è una situazione per cui l'altra persona è a casa, non lavora e deve fare la spesa per i figli, io attingo al risparmio, vivendo delle cose. E questo è il buon senso, certo. No? Così come io immagino anche un'ulteriore declinazione di tutto questo, so Mauro che siamo in chiusura, la metto solamente lì come considerazione finale, di chi in questo periodo dirà, ecco, ha utilizzato anche la scuda del coronavirus per non venire a prendere i figli e li lascia a me altri giorni, perché sicuramente sentiremo pure questa, speriamo di no, però insomma che tutti si diano invece una calmata, perché tutti siamo in ballo in questa situazione emergenziale. Allora, Mauro, grazie all'avvocato Vaccaro. All'avvocato Giorgio Vaccaro, grazie ai nostri ospiti anche della prima parte, Stefano Besseghini, Francesco Burrelli. Noi torniamo lunedì sempre presenti e da Deborah tutto il giorno gli aggiornamenti sui mercati finanziari. Io oggi ho proprio un tour de force che non finisce più, ma sono ben contenta di farlo, perché così faccio compagnia agli ascoltatori di Radio 24 e sento anche questa compagnia reciproca da parte loro, quindi sono ben contenta. Grazie. Buon weekend a tutti.